il debole, il fragile, il reietto da sé e poi dai altri, il timido, lo spaventato e dubitoso, il cangiante, l'inaffidabile, il nidiaceo, il tenero, il duro grurum di molle più nella deriva, il muscio, il solitario uomo, la spaesata, la perduta persona che prima guarda e poi noi non guarda, che discorre poi tace, l'ansioso e inafferrabile, il vivido, l'esile, il transvago, il suo fagotto, il sempre apolide, l'orfano di tutte le orfanezze, il figlio eterno, l'eterna madre, il cucciolo di uomo, il maleamato e maleamante, il pavido fiero, il segreto, lampante principe di nessun regno. Sono sempre alle soglie della mia vita, sono soglie, sono morte, sono scelta o sorte per una che è stata timida, una dura, una mole, nidiace, apolide, la cui sorte è una scelta e la cui scelta si può pentire se sia la più sicura delle sorti. Thank you.